La cosa peggiore è che non c'è alcuna speranza che le cose migliorino, disse cupamente la signorina Cornelia. Finché il signor Meredith ha frequentato Rosemary West, ho sperato che alla canonica potesse arrivare una vera donna di casa, ma adesso è tutto finito. Immagino che lei non lo voglia per via dei bambini, o almeno questo è quello che pensano tutti. Secondo me lui non gliel'ha mai chiesto, disse Susan, che non concepiva l'idea che qualcuno potesse rifiutare la proposta di un pastore. Beh, non lo sa nessuno, ma una cosa è certa, lui non va più a trovarla. E Rosemary ha avuto una pessima cera per tutta la primavera. Spero che la sua vacanza a Kingsport le faccia bene. È lì da un mese e ci resterà un altro mese ancora, se ho ben capito. Non ricordo quando è stata l'ultima volta che Rosemary è stata via per così tanto tempo. Lei ed Ellen non hanno mai sopportato di stare separate. Ma pare che questa volta Elena abbia insistito perché andasse, e intanto lei e Norman Douglas stanno riscaldando la minestra. Davvero? Chiese Anna ridendo. Ho sentito qualche voce, ma non ci credevo. Oh, credici, puoi crederci senza timore, Anna cara, lo sanno tutti. Norman Douglas non ha mai lasciato dubbi a nessuno riguardo le sue intenzioni. Quando fa la corte a qualcuna, lo fa sempre alla luce del sole. Ha detto a Marshall che non aveva più pensato a Ellen per anni, ma la prima volta che è andato in chiesa lo scorso autunno l'ha vista e si è innamorato di nuovo di lei. Ha detto che si era proprio dimenticato di quanto fosse bella. Non la vedeva da 20 anni, ci credi? Ma lui non è mai venuto in chiesa ed Ellen non è mai andata da nessun'altra parte, quindi tutti sanno cosa vuole Norman. Ma quello che vuole Ellen è un'altra faccenda. Non sta a me dire se funzionerà oppure no. E lui l'ha già lasciata una volta. Ma a quanto pare, per certe persone queste cose non contano, signora dottora cara, commentò Susan in tono un po' acido. Lui l'ha lasciata in un accesso d'ira e se ne è pentito per tutta la vita, disse la signorina Cornelia. Non è come essere lasciati a sangue freddo, è diverso. Io comunque non ho mai detestato Norman come fa certa gente, non è mai riuscito a mettermi i piedi in testa. Però mi chiedo come mai sia tornato in chiesa. Non sono mai riuscita a credere alla storia che racconta la signora Wilson su Faith Meredith che è andata a casa sua e lo ha costretto. Ho pensato di chiederlo direttamente a Faith, ma ogni volta che la vedo me ne dimentico. Ma che influenza potrebbe mai avere lei su Norman Douglas? Era al negozio quando sono andata via e rideva come un pazzo mentre leggeva quella lettera scandalosa. Si sentiva fino all'altro capo di Four Winds. È una ragazzina incredibile! Strillava. Così tanto fegato non si è mai visto, e quelle vecchie nonnette che vogliono domarla, maledette loro, tanto non ce la faranno mai. È come tentare di annegare un pesce. Boyd, vedi di mettere un po' più di fertilizzante sulle tue patate l'anno prossimo. Quando è scoppiato a ridere, pareva che dovesse venire giù il tetto. Però la sua offerta per lo stipendio del pastore è molto generosa, commentò Susan. Oh, Norman non è mica cattivo. È capace di dare 1.000 dollari senza battere ciglio, e di infuriarsi come un toro per 5 centesimi di troppo da pagare. E poi mi piacciono i sermoni del signor Meredith. E Norman Douglas paga volentieri se in cambio riceve stimoli per il suo cervello. È cristiano quanto un pagano dell'Africa nera, ma è intelligente, istruito e giudica i sermoni come se fossero delle lezioni. E comunque è un bene che sostenga il signor Meredith e i suoi figli. Ne avranno bisogno ora più che mai. Io sono stanca di trovare scuse per loro, credete a me. Sa, signorina Cornelia, cara, disse Anna in tono serio, credo che abbiamo tutti esagerato con le scuse. È una cosa sciocca e dobbiamo smetterla. Adesso le dirò che cosa mi piacerebbe fare. Ovviamente poi non lo farò. Anna aveva notato una scintilla allarmata negli occhi di Susan. Sarebbe molto appropriato. È raggiunta un'età che si potrebbe definire dignitosa, bisogna cercare di essere appropriate sempre. Però mi piacerebbe, vorrei convocare una riunione della società di mutuo soccorso, della società missionaria, del circolo del cucito e invitare tra il pubblico tutti i metodisti che hanno criticato in Meredith. Anche se penso che noi presbiteriani per primi la smettessimo di criticare, di trovare scuse, scopriremmo che alle altre chiese importa molto poco degli inquilini della nostra canonica. Comunque, direi a tutti, cari amici cristiani, con una certa enfasi sul cristiani, ho qualcosa da dirvi e vorrei farlo nella maniera più chiara, in modo che possiate tornare a casa e riferirlo alle vostre famiglie. Voi metodisti non dovete compatirci e noi presbiteriani non dobbiamo compatire noi stessi. D'ora in poi non lo faremo più. E diremo invece sia a quelli che ci criticano, sia a quelli che ci sostengono, con coraggio e sincerità, che siamo orgogliosi del nostro pastore e della sua famiglia. Il signor Meredith è il miglior pastore che la chiesa di Glen St. Mary abbia mai avuto. È un maestro onesto e sincero di carità cristiana, un amico leale, un pastore saggio sotto tutti gli aspetti, e un uomo dai modi eleganti, istruito e ben educato. E la sua famiglia è degna di lui. Gerald Meredith è il miglior allievo della scuola di Glen, e il signor Hazard dice che è destinato a fare carriera, ed è coraggioso, giusto e sincero. Faith Meredith è tanto bella quanto originale e ispiratrice, è proprio fuori dal comune. Tutte le altre ragazze di Glen messe insieme non hanno l'energia, lo spirito, la gioia e il fegato che ha lei. Non ha un solo nemico al mondo, tutti quelli che la conoscono le vogliono bene. Di quanti altri bambini e di quanti adulti si può dire lo stesso? Una Meredith è la dolcezza fatta persona e diventerà una donna adorabile. L'amore di Carl Meredith per le formiche e per le rane un giorno ne farà uno scienziato naturalista onorato in tutto il Canada, anzi in tutto il mondo. Conoscete un'altra famiglia a Glen o altrove di cui si possano dire le stesse cose? E quindi basta con le scuse, le vergognose giustificazioni. Siamo felici del nostro pastore e dei suoi splendidi ragazzi e ragazze. Anna si interruppe, in parte perché era senza fiato dopo quell'appassionato discorso, e in parte perché non osava proseguire vista la faccia della signorina Cornelia. Quella brava donna la fissava attonita, apparentemente sommersa da un'ondata di nuove idee. Alla fine riuscì a emergerne e a guadagnare onorevolmente la riva. Anna Blythe, vorrei proprio che convocassi questa riunione e dicessi quello che hai detto ora. Mi hai fatto vergognare di me stessa e certo non sono tipo da rifiutare di ammetterlo. È questo che dovremmo dire, certo, soprattutto ai metodisti, ed è tutto vero ogni singola parola. Non abbiamo voluto vedere le cose importanti, ci siamo accaniti su minuzie che non contano niente. Oh, Anna cara, sono capace di vedere chiaramente le cose se qualcuno me le ficca nella zucca. Niente più scuse per Cornelia Marshall. Terrò alta la testa, credete a me. Anche se magari verrò qui da te a sfogarmi, come sempre, se per caso i Meredith dovessero farne un'altra delle loro. Persino quella lettera che mi ha turbato così tanto, in fondo non è che uno scherzo, come ha detto Norman. Non sono molte le ragazze che avrebbero avuto il coraggio di scriverla. E poi la punteggiatura è perfetta e non c'è nemmeno un errore di ortografia. Oh, aspettate che i metodisti dicano una sola parola in proposito. Anche se comunque non ho intenzione di perdonare Joe Vickers. Credete a me. Ma dov'è il resto della tua truppa stasera? Walter e le gemelle sono nella valle dell'arcobaleno e Jem sta studiando in soffitta. Vanno proprio pazzi per quella valle dell'arcobaleno. Per Mary Vance è l'unico posto che esista al mondo. Verrebbe qui tutte le sere se glielo permettessi, ma io non la incoraggio a vagabondare troppo e poi mi manca quando non è nei paraggi. Anna cara, non avrei mai pensato di affezionarmi così tanto. Non che non provi a correggere i suoi difetti quando me ne accorgo, ma lei non mi ha mai risposto male da quando è entrata in casa mia e mi è di grande aiuto. Alla fine, Anna cara, non sono più giovane come un tempo, non ha senso negarlo. Quest'anno ho compiuto 59 anni, non li sento, ma non si può mentire al certificato di nascita. Un concerto sacro. Nonostante le sue nuove posizioni, la signorina Cornelia non riuscì a non essere turbata dalla successiva impresa dei ragazzi della canonica. In pubblico si comportava splendidamente, rispondendo a tutte le pettegole con le argomentazioni che Anna aveva esposto quella sera tra i narcisi. Lo faceva inoltre con tale veemenza ed energia che i suoi interlocutori e interlocutrici si sentivano subito delle sciocche e cominciavano a pensare che forse, dopo tutto, stavano dando troppa importanza a uno scherzo da bambini. In privato, però, la signorina Cornelia si permetteva di lamentarsi con Anna. Anna, cara, giovedì sera hanno fatto un concerto nel cimitero durante il raduno di preghiera dei metodisti. Sono stati un'oretta buona a cantare sulla tomba di Ezekiah Pollock. Certo, per lo più hanno cantato degli inni sacri e se si fossero limitati a quelli non sarebbe stato poi così grave, ma mi hanno detto che hanno concluso con Fra Martino Campanaro. È proprio mentre il diacono Baxter stava pregando. Io c'ero quella sera, disse Susan, ma non le ho detto nulla, signora dottora. Continuavo a pensare che era proprio una sfortuna che avessero scelto proprio quella sera. Sentirli cantare a pieni polmoni delle canzonette frivole in quel luogo di morte faceva gelare il sangue. Ma che ci facevi a un raduno di preghiera dei metodisti? chiese acida la signorina Cornelia. Non credo si possa diventare metodisti per contagio, rispose Susan irrigidendosi. E come stavo per dire prima di essere interrotta, per quanto abbia trovato la cosa inappropriata, non gli ho dato soddisfazione. Quando siamo usciti, la moglie del diacono Baxter ha detto: Che disgraziati! E io le ho risposto, guardandola negli occhi: Cantano proprio bene. Invece mi pare che nessuno del vostro coro si sia preso il disturbo di venire al raduno di preghiera, signora Baxter. Forse sono intonati solo di domenica. Lei ha incassato e io penso proprio di averla rimessa al posto suo, ma avrei potuto fare di molto peggio, signora dottora, se solo avessero evitato fra Martino Campanaro. È davvero terribile pensare che l'hanno cantata nel cimitero. Qualcuna di quelle persone morte magari la cantava quando era viva Susan. Potrebbe avergli fatto piacere sentirla, suggerì Gilbert. La signorina Cornelia gli lanciò un'occhiata di rimprovero e si ripromise di dire ad Anna per il futuro di avvisare il dottore di non dire certe cose. Potevano avere conseguenze negative sul suo lavoro. La gente avrebbe cominciato a pensare che fosse un eretico. A dire la verità, Marshall diceva spesso cose molto peggiori, ma lui non era un personaggio pubblico. Capisco che loro padre è sempre chiuso nel suo studio con le finestre aperte, ma non vede proprio nulla. Di sicuro era perso in qualche libro, come sempre. Ieri però, quando è venuto a farmi visita, gliene ho parlato. Come ha osato, signora Elliot? Chiese Susan indignata. Osato? Era pur ora che qualcuno osasse. Dicono che non sappia nulla nemmeno della lettera di Faith al Journal. Perché nessuno gliene ha parlato e ovviamente lui non legge il Journal. Però ho pensato che questo dovesse saperlo, per evitare che si ripetano cose del genere in futuro. Ha detto che ne parlerà con loro. Ma di sicuro se l'è dimenticato nell'istante in cui ha messo piede fuori dal cancello. Quell'uomo non ha senso dell'umorismo, Anna. Credi a me, domenica scorsa ha parlato di come educare i bambini ed è stato un sermone splendido, ma tutti in chiesa hanno pensato: peccato che non riesca a mettere in pratica quello che predica. La signorina Cornelia aveva fatto un torto al signor Meredith, pensando che avrebbe subito dimenticato ciò che gli aveva detto. Era rientrato a casa piuttosto turbato e quando i bambini erano tornati dalla valle dell'arcobaleno, più tardi di quanto sarebbe stato opportuno che rimanessero in giro, li aveva chiamati nel suo studio. Loro erano entrati piuttosto meravigliati, non era un comportamento normale da parte del loro papà. Di cosa voleva parlare? Si lambicarono il cervello alla ricerca di qualche recente trasgressione di particolare importanza, ma non gliene venne in mente nessuna. 2 sere prima Carl aveva rovesciato un piattino di marmellata sul vestito di seta della moglie di Peter Flagg, che si era fermata a cena su invito della zia Marta. Ma il signor Meredith non se n'era nemmeno accorto e la signora Flagg, che aveva un animo gentile, non si era arrabbiata. E poi Carl, per punizione, era stato obbligato a indossare un vestito di una per il resto della serata. All'improvviso una pensò che suo padre volesse dire loro che stava per sposare la signorina West. Il suo cuore prese a battere violentemente e le gambe a tremare. Poi vide che lui aveva un'aria molto seria e addolorata. No, non poteva essere questo. Bambini, disse il signor Meredith, ho sentito una cosa che mi ha rattristato molto. È vero che giovedì sera eravate seduti nel cimitero a cantare canzonette mentre alla chiesa metodista era in corso un raduno di preghiera? Per Cesare imperatore, papà, ci siamo dimenticati che quella sera c'era il raduno di preghiera. Esclamò Jerry sgomento. Allora è vero, l'avete fatto. Beh, papà, non so però cosa intendi per canzonette. Abbiamo cantato degli inni, era un concerto sacro, vedi? Che male c'era? E davvero, è come ti ho detto, non ci siamo resi conto che quella sera c'era il raduno di preghiera metodista. Prima li facevano di martedì e da quando hanno cambiato a giovedì facciamo fatica a ricordarlo. Quindi avete cantato soltanto inni? Beh, disse Jerry facendosi tutto rosso, alla fine abbiamo cantato anche fra Martino Campanaro. Faith ha detto: Cantiamo qualcosa di allegro per concludere. Però non avevamo cattive intenzioni, papà, davvero. Il concerto è stata una mia idea, papà, disse Faith, temendo che il signor Meredith se la prendesse troppo con Jerry. Ricordi che 3 settimane fa i metodisti hanno tenuto un concerto sacro nella loro chiesa? Ecco. Ho pensato che sarebbe stato divertente farne uno così anche noi. Loro hanno anche pregato, ma noi abbiamo evitato perché abbiamo sentito dire che alla gente non piace che preghiamo nel cimitero. E comunque tu sei stato qui per tutto il tempo, aggiunse, e non ci hai detto niente. Non mi ero accorto di cosa stavate facendo. Non è una scusa, certo, è più colpa mia che vostra, me ne rendo conto, ma perché avete cantato quella canzoncina alla fine? Non ci abbiamo pensato, mormorò Jerry, realizzando che era una scusa piuttosto misera, visto quanto aveva rimproverato Faith al club della buona condotta perché non pensava prima di agire. Ci dispiace, papà, davvero. Sgridaci, ci meritiamo una bella ramanzina. Ma il signor Meredith non ricorse a sgridate e ramanzine. Si sedette, radunò i piccoli colpevoli intorno a lui e parlò loro con tenerezza e saggezza. I ragazzi si sentirono sopraffatti dal rimorso e dalla vergogna e capirono che in futuro non sarebbero più stati tanto sciocchi e sventati. Dobbiamo assegnarci una bella punizione per questo, sussurrò Jerry quando salirono al piano di sopra. Domattina per prima cosa riuniremo il club e decideremo quale. Non ho mai visto papà così triste, però vorrei proprio che i metodisti stabilissero una volta per tutte il giorno del loro raduno di preghiera e non lo cambiassero tutte le settimane. Io comunque sono contenta che non sia successo quel che temevo, mormorò una tra sé e sé. Nello studio che avevano appena lasciato, il signor Meredith si era seduto alla scrivania e aveva sepolto il viso tra le mani. Buon Dio, aiutami, disse. Sono proprio un pessimo padre, oh Rosemary, se solo ti fosse importato di me. Un giorno di digiuno. Il club della buona condotta tenne una riunione straordinaria la mattina successiva, prima della scuola. Dopo vari suggerimenti fu deciso che la punizione più appropriata fosse un giorno di digiuno. Non mangerò nulla per una giornata intera, disse Jerry. Ero comunque curioso di sapere com'è digiunare, questa sarà l'occasione per scoprirlo. Che giorno scegliamo? Chiese una che pensava fosse una punizione tutto sommato leggera e si chiese se Jerry e Faith non avrebbero fatto meglio a escogitare qualcosa di più duro. Io direi il lunedì, suggerì Faith. Di solito la domenica sera la cena è più abbondante, mentre i pasti del lunedì non sono mai granché. Ma il punto è proprio questo, esclamò Jerry. Non dobbiamo scegliere il giorno più facile per digiunare, ma quello più difficile, ed è la domenica, perché come hai detto tu, in genere c'è il rosbif al posto del solito freddo. Digiunare dal solito non sarebbe una gran punizione. Facciamolo domenica prossima. È un buon giorno perché papà fa cambio di parrocchia con il pastore di Lowbridge e tornerà solo la sera. E se la zia Marta ci chiederà qualcosa, le diremo che stiamo digiunando per il bene delle nostre anime, come scritto nella Bibbia, e che lei quindi non deve interferire. E non credo che lo farà. La zia Marta, in effetti, non lo fece. Si limitò a mormorare innervosita: oh, che sciocchezza è mai questa, giovinastri! Ma poi non ci penso più. Il signor Meredith era uscito presto, prima che tutti gli altri si alzassero. Non aveva fatto colazione, ma questo avveniva spesso. Metà delle volte se lo dimenticava e non c'era nessuno a ricordarglielo. La colazione di zia Marta non era un pasto che dispiaceva troppo saltare. Persino i giovinastri non considerarono una grande privazione dover rinunciare alla pappa d'avena con i grumi e al latte scremato, che avevano suscitato l'indignazione di Mary Vance. A pranzo però fu diverso. A quel punto erano tutti affamatissimi e il profumino del rosbif che aveva invaso la canonica ed era delizioso, nonostante la carne fosse stata cotta decisamente troppo poco, era davvero troppo da sopportare. Presi dalla disperazione, i bambini si rifugiarono nel cimitero dove non potevano sentirlo. Ma una non riusciva a distogliere lo sguardo dalla finestra della sala da pranzo, dalla quale si vedeva il pastore di Lowbridge mangiare serenamente. Se solo potessi averne un pezzettino, sospirò. Smettila, dai, le ordinò Jerry. È difficile, lo so, ma è la nostra punizione. In questo momento penso che potrei divorare letteralmente qualsiasi cosa, ma mi sto forse lamentando? Pensiamo a qualcos'altro piuttosto, dobbiamo elevarci al di sopra dello stomaco. A cena non sentivano più i morsi della fame che li avevano fatti soffrire durante il giorno. Mi sa che ci stiamo abituando, disse Faith. Io mi sento un po' strana, ma non posso dire di essere affamata. Ho una strana sensazione alla testa, disse una. Ogni tanto mi gira. Ma andò, obbediente, in chiesa insieme agli altri. Se il signor Meredith non fosse stato così preso dal suo sermone, avrebbe magari notato i visetti pallidi e gli occhi incavati che lo guardavano dal banco della canonica. Ma non si accorse di nulla e il suo sermone fu anche più lungo del solito. Poi, appena prima dell'inno finale, una Meredith scivolò dal banco e crollò a terra, svenuta. La signora Clow fu la prima a raggiungerla. Raccolse il corpicino dalle braccia di Faith, pallida e terrorizzata, e lo portò in sacrestia. Il signor Meredith dimenticò l'inno e tutto il resto e gli corse dietro. La congregazione si accomiatò alla belle meglio. «Oh, signora Clow!» esclamò Faith. «Una è morta! L'abbiamo uccisa!» «Che succede, bambina mia?» chiese il padre bianco come un cencio. «Credo sia semplicemente svenuta», disse la signora Clow. «Oh, ecco il dottore, grazie al cielo!» Gilbert ebbe qualche difficoltà a far riprendere i sensi a una. Si diede da fare per un bel po', ma poi lei aprì gli occhi e lui la trasportò alla canonica, seguito da Faith che singhiozzava isterica ma sollevata. Ha solo fame, sa? Non ha mangiato niente oggi. Nessuno di noi ha mangiato. Stavamo digiunando. Digiunando? Dissero all'unisono il signor Meredith e il dottore. Sì, per punirci di aver cantato Fra Martino Campanaro nel cimitero, disse Faith. Oh, bambina mia, ma non volevo che vi puniste per questo, disse il signor Meredith angosciato. Vi ho sgridato e voi vi siete pentiti e vi ho perdonato. Sì, ma dovevamo comunque punirci, spiegò Faith. È una regola del nostro club della buona condotta, sapete? Se facciamo qualcosa di sbagliato o qualcosa che può danneggiare papà agli occhi della parrocchia, dobbiamo punirci. Ci stiamo educando da soli, vedete, perché nessun altro lo fa. Il signor Meredith brontolò qualcosa, ma il dottore si alzò dal capezzale di una con un'aria sollevata. Ciò vuol dire che questa bambina è svenuta per mancanza di cibo, e tutto quello che le serve è un buon pasto, disse. Signora Klaus, sarebbe così gentile da assicurarsi che mangi? E considerando quel che ci ha detto Faith, direi che è meglio che mangino tutti se non vogliamo che svenga qualcun altro. Forse non avremmo dovuto far digiunare anche una. Disse Faith in preda al rimorso. Ora che ci penso, solo io e Jerry meritavamo la punizione. Siamo stati noi a organizzare il concerto e siamo i più grandi. Ma io ho cantato insieme a voi, disse una con voce fioca, perciò dovevo essere punita anch'io. La signora Clow tornò con un bicchiere di latte. Faith, Jerry e Carl si spostarono nella dispensa e John Meredith andò nel suo studio, dove rimase seduto al buio per un bel po', solo con i suoi amari pensieri. I suoi figli si stavano educando da soli perché nessun altro lo faceva. Affrontavano le loro piccole difficoltà senza una mano che li guidasse o una voce che li consolasse. Quella frase così innocente di Faith tormentava la sua mente come la lama di un coltello. Non avevano nessuno che badasse a loro, che confortasse i loro animi e si curasse dei loro corpicini. Quanto gli era parsa fragile una, priva di sensi e sdraiata sul divano della sacrestia, quanto erano sottili le sue manine e quanto era pallido il suo visetto. Sembrava quasi che potesse svanire da un momento all'altro la sua dolce una, sulla quale Cecilia gli aveva raccomandato di vegliare con particolare sollecitudine. Chino sulla sua bambina svenuta aveva provato un'angoscia che non sperimentava dal giorno in cui era morta sua moglie. Doveva fare qualcosa, ma cosa? Doveva chiedere a Elizabeth Kirk di sposarlo. Era una brava donna, sarebbe stata gentile con i bambini. Avrebbe forse potuto costringersi a farlo se non fosse stato innamorato di Rosemary West. Ma lei lo aveva respinto e adesso lui non poteva sposare un'altra. E non riusciva neanche a dimenticarla. Ci aveva provato, senza successo. Rosemary era in chiesa quella sera. Era la prima volta che veniva da quando era tornata da Kingsport. Appena concluso il sermone aveva intravisto il suo viso in fondo alla chiesa affollata e il suo cuore aveva fatto un balzo. Era rimasto seduto mentre il coro cantava l'inno delle offerte con il capo chino e il battito frenetico. Non la vedeva dalla sera in cui le aveva chiesto di sposarlo, quando si era alzato per concludere l'inno. Aveva le mani tremanti e il volto pallido, tutto arrossato. Poi una era svenuta e per un po' nella sua testa non c'era stato spazio per altro, ma adesso, nel buio e nella solitudine dello studio, gli era tornato tutto alla mente. Rosemary per lui era l'unica donna al mondo, non poteva concepire di sposare qualcun altra. Era un sacrilegio che non poteva commettere, nemmeno per i suoi bambini. Doveva quindi portare il suo fardello da solo, doveva tentare di essere un padre migliore, più attento, doveva dire ai suoi figli di non avere paura di andare da lui a raccontargli i problemi. Accese la lampada e prese un grosso volume che stava suscitando un grande scalpore in ambito teologico. Voleva leggerne un capitolo e basta, giusto per tranquillizzare la mente. 5 minuti dopo aveva dimenticato il resto del mondo e tutti i suoi problemi. Una strana storia. Nelle sere di inizio giugno, la valle dell'arcobaleno diventava un luogo delizioso. I bambini, seduti nella radura ad ascoltare il tintinnio fatato degli alberi innamorati e il fruscio della verdeggiante chioma della dama bianca, se ne rendevano ben conto. Il vento rideva e fischiava tutto intorno a loro come un amico allegro e leale, e le giovani felci nella conca riempivano l'aria del loro profumo. I ciliegi selvatici sparpagliati nella valle tra i tronchi scuri degli abeti erano di un bianco opaco. Nel macchione di aceri dietro Ingleside i petirossi cinguettavano e sui pendii di Glen il frutteto era in fiore, dolce, magico e meravigliosamente avvolto nel crepuscolo. Era primavera e tutto ciò che era giovane si rallegrava. Nella valle dell'arcobaleno regnava quindi la felicità. Finché non giunse Mary Vance a far gelare il sangue a tutti con la storia del fantasma di Harry Warren. Jem non c'era, era come al solito in soffitta a studiare per i suoi esami. Jerry invece era al laghetto a pescare trote. Walter aveva letto agli altri le poesie sul mare di Longfellow e tutti erano rimasti incantati dalla bellezza e dal mistero delle navi di cui si parlava. Parlarono di cosa avrebbero fatto da grandi, dove avrebbero viaggiato, delle spiagge lontane che avrebbero visto. Nan e Dee volevano andare in Europa. Walter sognava di vedere il Nilo mormorare tra le sabbie d'Egitto e di scorgere in lontananza la Sfinge. Faith, con un certo disappunto, disse che probabilmente sarebbe diventata una missionaria, perché così le aveva detto la signora Taylor, e immaginò che almeno avrebbe visto la Cina e l'India, misteriose terre d'Oriente. Il cuore di Carly, invece, era attirato dalla giungla africana. Una non disse niente. In realtà sarebbe stata felice di rimanere a casa. Le pareva il posto più bello del mondo. Sarebbe stato terribile se si fossero tutti sparpagliati in giro per il mondo da grandi. Anche solo l'idea del... le suscitava solitudine e nostalgia. Ma gli altri continuarono a sognare felicemente a occhi aperti finché non arrivò Mary Vance a far svanire in un sol colpo sogni e poesia. Accidenti! Mi manca il fiato! Esclamò. Mi sono precipitata giù dalla collina, alla vecchia casa dei Bailey. Mi sono presa un bello spavento. Che cosa ti ha spaventata? Chiese di. Non lo so. Stavo curiosando sotto i cespugli del vecchio giardino. Volevo vedere se erano già spuntati dei mughetti. Era buio pesto e tutto a un tratto ho visto qualcosa che si muoveva e frusciava tra gli arbusti di ciliegie dall'altra parte del giardino. Qualcosa di bianco. Ve lo dico, non mi sono fermata a guardare. Ho saltato il fossato con un solo balzo e me la sono filata. Sono sicura che era il fantasma di Harry Warren. E chi era Harry Warren? Chiese Dee. E perché mai il suo fantasma dovrebbe essere nei paraggi? Aggiunse Nan. Accidenti, non conoscete la storia. Siete anche cresciuti a Glen? Aspettate che riprenda fiato e ve la racconto. Walter rabbrividì di piacere, adorava le storie di fantasmi. Il mistero, la tensione e l'inquietudine gli suscitavano un piacere squisito e allo stesso tempo spaventoso. Tutto a un tratto, Longfellow gli parve troppo pacato e noioso. Mise da parte il libro e distese le gambe, sorreggendosi sui gomiti, per ascoltare con attenzione gli occhi grandi e scintillanti fissi sul volto di Mary, che dal canto suo si sentiva a disagio a essere guardata così. Senza gli occhi di Walter addosso l'avrebbe raccontata di certo meglio quella storia di fantasmi. Magari l'avrebbe abbellita un po', avrebbe aggiunto qualche dettaglio artistico per aumentare l'orrore. Invece così era costretta ad attenersi alla pura verità, o almeno a quella che le era stata raccontata come tale. Dunque, esordì, sapete tutti che 30 anni fa in quella casa lassù vivevano Tom Bailey e sua moglie. Lui era un vecchiaccio perfido, dicono, e sua moglie non era da meno. Non avevano figli, ma una sorella di Tom morì lasciando un figlio piccolo, Harry Warren, appunto, e loro se lo presero in casa. Aveva circa 12 anni quando arrivò ed era minuto e delicato. Tom e sua moglie lo trattarono male fin dall'inizio, o almeno così dicono, lo picchiavano e non gli davano abbastanza da mangiare. La gente dice che volevano che morisse per poter ereditare un po' di denaro che sua madre aveva lasciato per lui. Harry non morì subito, ma cominciò ad avere degli strani attacchi. Dicono che fosse epilessia e non ci stava molto con la testa. Comunque, arrivò a 18 anni. Suo zio di solito lo picchiava nel giardino sul retro della casa perché lì nessuno li vedeva, però li sentivano e la gente dice che era orribile sentire il povero Harry implorare suo zio di non ucciderlo. Nessuno però osava intromettersi perché il vecchio Tom era così cattivo che di certo si sarebbe vendicato in qualche modo. Aveva bruciato il fienile di un tizio a Harbor Head solo perché gli aveva mancato di rispetto. Alla fine Harry morì e lo zio e la zia dissero che era morto per uno dei suoi attacchi. Non si seppe altro, ma tutti dicevano che Tom alla fine lo aveva ucciso. Non molto tempo dopo cominciò a spargersi la voce che Harry era ricomparso e che il giardino era infestato. Lo sentivano piangere e gemere lì tutte le notti. Il vecchio Tom e sua moglie se ne andarono all'ovest e non tornarono mai più. E la casa aveva ormai una così brutta fama che nessuno la comprò o l'affittò mai. Ecco perché è finita in rovina. È successo 30 anni fa, ma il fantasma di Harry Warren è ancora lì. Ma tu ci credi a questa storia? Disse Nano sprezzante. Io no. Beh, tanta brava gente l'ha visto e l'ha sentito, rispose Mary. Dicono che quando appare striscia per terra e ti prende per le gambe e geme. E si lamenta come quando era vivo. Quando ho visto quella cosa bianca nei cespugli mi è venuta subito in mente questa storia e ho pensato che se mi avesse acchiappato e avesse cominciato a gemere sarei morta all'istante. Perciò me la sono filata. Magari non era il suo fantasma, ma non avevo alcuna intenzione di fermarmi a scoprirlo. Probabilmente era il vitellino bianco della vecchia signora Stimson, disse Dee ridendo. Pascola spesso nel giardino, l'ho visto anch'io. Può darsi, però non penso proprio che tornerò più a casa passando dal giardino dei Bailey. Oh, sta arrivando Jerry con un bel po' di trote e tocca a me cucinarle oggi. Lui e Jem dicono che sono la migliore cuoca di Glen e Cornelia mi aveva dato il permesso di portare dei biscotti, ma li ho fatti cadere quasi tutti quando ho visto il fantasma di Harry. Jerry commentò con un fischio la storia del fantasma che Mary ripeté mentre friggeva il pesce, aggiungendo qualche tocco qua e là visto che Walter era andato ad aiutare Faith ad apparecchiare. Jerry non ne fu particolarmente impressionato, al contrario di Faith, Una e Carl, che si erano spaventati parecchio, anche se non l'avrebbero mai ammesso. Finché rimasero tutti insieme nella valle andò tutto bene, ma quando il banchetto terminò e scesero le ombre, tutti rabbrividirono al ricordo. Jerry andò a Ingleside con i Blythe per chiedere una cosa a Jem e Mary Vance si avviò verso casa sua per un'altra strada. Perciò Faith, Una e Carl dovettero tornare alla canonica da soli. Camminarono vicinissimi e si tennero bene alla larga dal giardino dei Bailey. Non credevano davvero che fosse infestato, ma pensarono fosse meglio non avvicinarsi, tanto per stare sicuri.